Tempo di Sport con Carlo Genta. Me ne vado perché sono molto stanco. Ho dato il 100% questa stagione. Penso che è arrivato anche il momento che io mi mettessi da parte, come ho fatto. Anche con l'Atalanta, Del Piero, sicuramente sarà in campo dall'inizio con la fascia di capitano. Mi sembra un atto doveroso nei suoi confronti, ma non tanto per la carriera, per quello che mi ha dato quest'anno, per quello che ha fatto e che dovrà fare sia domenica che domenica prossima. E serviranno un sacco di fazzoletti, anzi sarà la domenica dei fazzoletti, ne serviranno una montagna ai tifosi per salutare i vecchi eroi, tutta la Villa Salus del Milan al gran completo è in blocco, poi Luis Enrique, Del Piero, Di Vaio, Cordoba per altri motivi, Lavezzi, Montolivo che già è stato annunciato oggi da Allegri giusto per ridare un po' di colore ai milanisti, poi Giovinco, Robinho e compagnia, insomma. Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio Alessandra. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, il Milan è dovuto arrivare alla sconfitta perché tale è in questo campionato e alla consunzione fisica. Tutti via in blocco, non c'è niente di normale, mi pare, in questa situazione. Tutto è normale, non lo so, vedi no, tu. No, normale no. Io penso che ci sono stati negli anni di sicuro un paio di occasioni ancora prima, quando c'era Ancelotti, e dopo il 2007 quando è stata raggiunta un'altra Champions League, c'erano le occasioni per dire vabbè, forse è meglio rinnovare, ripartire prima che si debba ripartire da zero, più o meno, insomma, sì. Non è che il Milan riparta da zero, però insomma non ha più il gruppo storico e non sembra sinceramente avere giocatori che possano riprendere l'eredità di questo gruppo, perché ci sono dei giocatori italiani che sono affezionati alla maglia, che sono secondo me dei bravi professionisti, ma che non hanno sulla squadra, nella squadra e per i risultati, il peso che hanno avuto in passato Gattuso, Nesta, certo. Inzaghi, anche Seedorf, Pirlo, insomma tutti quelli che se ne sono andati o che se ne stanno andando. Certo. Secondo me si è seguita fino alla fine una logica di squadra che vince, o anzi squadra che ha vinto non si tocca, è l'errore che ha fatto Milan per tanti anni e secondo me anche l'errore che in parte naturalmente molto più lieve ha fatto l'Inter e che poi ha pagato. Sì, anche perché al di là della campagna acquisti che verrà e dei soldi che ci metterà Berlusconi, che non so quanti possano essere. Credo pochi. Credi pochi? Ma se oggi Allegri ha detto Berlusconi è carico, Non vorrei deprimere i tifosi del Milan, per l'amor del cielo, però non credo che si debbano aspettare un top player, Cristiano Ronaldo, Van Persie, chissà chi altro. Gente così, insomma. Di no. Sì. Ma secondo me non è neanche, sarebbe neanche forse il modo migliore per ripartire. Io credo che il modo migliore per ripartire sia costruire una squadra. Esatto, cioè capire che bisogna ripartire, che fra un po', anche se sono discorsi che giustamente non interessano i tifosi, arriva il mostruoso, temutissimo fair play finanziario, quindi bisognerà imparare a gestire la società in una maniera un pochino più sana. Spero che il fair play finanziario tanto sbandierato da Platini valga per tutti e non solo per i club italiani. Guarda, io ci credo poco a sta storia anch'io, qui, ti dico la verità. Anch'io, però diamogli il beneficio di inventario. Diamo il beneficio del dubbio, naturalmente, che non si nega quasi a nessuno, Alessandra. Quasi a nessuno. No, ma sai cosa? Al di là dei giocatori che verranno e dei soldi tanti o pochi che può mettere Berlusconi, dei top player o trop player o quello che vuoi, secondo me c'è un altro punto, che è quello a cui facevi riferimento prima. Il Milan, fin dai tempi di Sacchi, in cui c'erano Baresi, Tassotti e questa gente, ha sempre avuto un gruppo forte anche all'interno dello spogliatoio. Quindi oggi leggo, oltre a te, tutti gli altri, Alberto Costa, che fa tre punti, sottolinea tre rischi, uno dei quali è che lo spogliatoio rischia di finire in mano a due o tre teste calde che non è neppure il caso di elencare, tanto sono facilmente individuabili. Sì, sì, io sinceramente intanto capisco dove si vuole andare a parare. Secondo me Ibrahimovic non è una testa calda, cioè non è uno, è più che altro uno che magari, ecco, onestamente non si può immaginare che abbia lo stesso attaccamento alla maglia che ha avuto Rino Gattuso, perché lui è così, perché l'ha sempre detto: io sono Zlatan, se mi annoio vado via. Adesso ho 30 anni, quindi anche lui forse non può più andare via sempre quando si annoia, perché sì, forse non è più come qualche anno fa, però è chiaro che sono persone con temperamenti diversi. Però quindi non vedi questo rischio? No, io vedo il rischio che non sia più come prima, ma è una cosa che è accaduta a tutte le squadre. Il Milan, fra tentennamenti, vittorie, sconfitte, annatacce, annate così così eccetera, ha portato avanti una situazione stabile per tanti anni, però d'altra parte, quando la situazione è, diciamo, troppo stabile, arriva un momento in cui tu paghi la tanta stabilità degli anni precedenti, e arriva sempre un momento in cui arriva una persona che deve cambiare, che quindi viene osteggiata, criticata, alla quale magari in un certo senso si impedisce di lavorare, anche senza volere, perché porta delle abitudini, dei valori o dei disvalori nuovi che non vengono riconosciuti dal gruppo dominante. Però i gruppi dominanti non possono dominare per sempre, no, ma è chiaro. Soprattutto nel calcio, per ragioni anagrafiche, finiscono e non è facile trovarne degli altri. Il Milan ha avuto bravura, fortuna negli anni a trovare delle persone che hanno trascinato poi tutti gli altri, e un'amalgama molto difficile da ricreare. Credo che tutti debbano essere consapevoli del fatto che appunto questa cosa qui, l'amalgama, come ricordiamo anche un noto presidente degli anni passati, sia difficile da comprare. Ma quanto viene questa amalgama? Quanto viene? Quanto costa? Esatto, secondo me l'amalgama costa anche più di Cristiano Ronaldo, quindi insomma sì, ci vorrà del tempo. E tutti dovranno capire che insomma gli anni della grandeur sono definitivamente passati per molti punti di vista. Non è che uno debba stare lì col cilicio a no, è chiaro, però non sarà facilissimo, che si parte da altre basi, che non sarà facile, che e insomma bisogna anche, io lo dico anche un po' appunto, sono stata anche spesso criticata perché poi i tifosi di altre squadre mi criticano perché dicono che razzolo male. Io non razzolo da nessuna parte, io dico che il calcio italiano culturalmente qualcosina deve cambiare, appunto nel rapporto per esempio con gli allenatori, con i presidenti ne hanno fatte di cotte e di crude, diciamoci la verità. E quindi secondo me in questo caso, tornando al Milan, bisogna essere molto freddi, molto lucidi, perché in questo momento l'emotività non basta. Domani tanti saluti, baci, lacrime, fazzoletti, chi ne ha voglia, e poi sarà caso di girare pagine. I grandi protagonisti di questo momento storico diventano Galliani, Braida e gli uomini mercato del Milan, e saranno loro i veri protagonisti il Milan ha anche fatto degli acquisti tutto sommato, secondo me, per i tifosi in qualche modo non soltanto consolatori, perché Montolivo è un ragazzo relativamente giovane, è un ragazzo italiano e può andare a inserirsi comunque in un'ossatura che deve dimostrare a questo punto di essere indipendente dai protagonisti che ci sono stati per tanti certo. anni. Grazie Alessandra, buon grazie lavoro. A voi. Grazie, ciao, grazie ciao. Ad Alessandra Bocci, con cui abbiamo aperto questo programma del sabato. Domani saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino, quindi se siete in zona veniteci a trovare di persona allo stand di Radio 24, 16:30-19 come ogni domenica. Molte cose, poco tempo come al solito, molte cose abbiamo da dirvi, molte cose vorremmo raccontarvi, a partire dalla cronaca che ci dà i risultati di Serie B in attesa della partitissima delle 18 Pescara-Torino. Oggi pomeriggio è successo questo: Livorno-Sassuolo 0-0, Crotone batte Nocerina 3-1, Empoli-Vicenza 1-1, la Sampdoria ha fatto un bel colpo vincendo sul campo della Juve Stabia 2-1 con i gol di Munari e Icardi, 4-0 del Varese sull'Ascoli, 2-1 del Modena sul Grosseto, Padova batte Gubbio 3-0, finisce 3-3 tra Regina e Cittadella, l'anticipo del venerdì, Bari-Brescia 2-2 ormai in archivio. Lunedì si gioca il Binoleffe Verona, al momento Torino 74, Pescara 76, Pescara e Sassuolo 74, Verona 73, queste le prime quattro in classifica, ma Pescara e Torino devono ancora giocarsi appunto la partitissima. Domani vedremo un Gran Premio, tra le altre cose, prima di acchiappare tutti i fazzoletti disponibili per i tifosi del calcio, vedremo un Gran Premio di Formula 1 che ha vissuto delle prove stranissime, quello del Montmeló. delle prove tutto sommato felici per la Ferrari, che piazza Alonso al terzo posto, e non, questa stagione è una seconda fila, è qualcosa di da festeggiare, credo, per i tifosi della rossa. Davanti ad Alonso Hamilton, e questo era facilmente prevedibile, ma l'imprevedibile Maldonado sulla Williams. Quindi quarto Grosjean, quinto Raikkonen, sesto Perez, settimo Rosberg, e vi direte dove sono finiti i big. Sono finiti all'ottavo posto con Vettel, quindi c'è Kobayashi nono, Schumacher decimo, e poi Button undicesimo e Webber dodicesimo. Lasciamo stare Massa, che è diciassettesimo come al solito nelle retrovie. Più tardi parleremo anche di Giro d'Italia, segneremo alle 17.45 dopo la viabilità il polsino di Ivan Basso, leggeremo un paio di racconti, ma soprattutto vi racconteremo la tappa di oggi, prima arrivo in salita, per la verità non impossibile, 8 km e 400 metri al traguardo, non immagino grandi rivoluzioni, c'è una fuga in atto ma senza grandi distacchi, come facilmente prevedibile, perché questo non è terreno. Domani vedremo anche, oltre ai verdetti del campionato, ai fazzoletti pieni di lacrime dei tifosi del Milan, della Juventus, non so, della Roma, quella di Luis Enrique, poi ne parliamo con calma, è una vicenda abbastanza comica, oltre ai fazzoletti vedremo anche la finale dell'Europa dei canestri tra il CSKA Mosca, e questo era facilmente prevedibile, l'imprevedibile l'Olympiakos, che ha battuto ieri il Barcellona, quindi Mosca contro Atene, Mosca contro Olympiakos, sarà la finale dell'Europa dei canestri. Voglio farvi sentire, dunque, cosa vi faccio sentire? Luis Enrique, perché me ne vado, lo ha spiegato oggi, sentiamolo. Me ne vado perché sono molto stanco, ho dato il 100% questa stagione, pure quando mi sono mancati le forze ho pensato che il mio... era il momento di rimanere vicino ai miei calciatori. Adesso finisce la stagione, penso che non recupererò questa forza nell'estate, e se non posso recuperare la forza, come vado a convincere a un gruppo di quello che devo fare? E questa è la prima cosa, e la cosa più importante. Come non ho la forza e penso che non la vado a recuperare, il prossimo anno non allenerò sicuro, non so se avrei avuto qualche offerta, quello non mi preoccupa, ma devo recuperarmi, devo pensare chiaramente in recuperare questa forza. Dunque Luis Enrique, intanto stavo dando un'occhiata alla tappa del Giro, c'è la maglia rosa in difficoltà, molto staccata anche dal gruppo dei migliori, che non ha un grande scarto rispetto alla fuga, ma dopo ci colleghiamo con il Giro d'Italia. Resterei, se volete partecipare anche voi, 800240024, oltre che alla diaspora rossonera. Resterei su questa vicenda abbastanza comica di Luis Enrique, che avete sentito è stanco, seguirà Guardiola sui campi da golf. Ora, io capisco tutto, capisco che Roma è stressante, manda via Montella meno di 12 mesi fa, adesso manda via Luis Enrique, poi richiama Montella eccetera, però insomma Luis Enrique, capisco Guardiola che ha allenato tanto, relativamente tanto, ha vinto tantissimo invece in valore assoluto, però primo anno nel calcio di vertice, non ce la fa già più, è già scoppiato e deve prendersi un anno sabbatico Luis Enrique. Saluto e ringrazio Michele Criscitiello da Sport Italia, con cui è sempre un piacere fare quattro chiacchiere di mercato. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Non trovi anche tu un po' comica la vicenda di Luis Enrique, al di là di questa conferenza stampa che ha chiuso con un Forza Roma da lacrime agli occhi? No, se vuoi noi possiamo tradurre quelle che sono le frasi di circostanza dei vari personaggi, perché bisognerà parlare di Milan, si deve parlare in questo caso della Roma, tu mi chiedi di Luis Enrique e io ti posso rispondere che in Italia ormai abbiamo capito una cosa, possono allenare soltanto gli italiani, vincono gli italiani, sono abituati al calcio italiano soltanto i nostri allenatori. Luis Enrique che parla di stanchezza, d'accordo, dicevi giustamente tu, può essere anche stressante allenare a Roma, ma già parla di un anno sabbatico, ancora non ha iniziato a lavorare, come che tu inizi a fare il giornalista quest'anno, poi il prossimo anno già sei stanco. Questo lo trovo paradossale. La verità è che lui lascia la Roma non perché è stanco, perché ha fallito, perché ha dimostrato che con una squadra di giovani lui non può lavorare, probabilmente aveva bisogno di più esperienza, e quell'esperienza l'ha avuta anche dall'aiuto di Francesco Totti, perché con Totti le cose erano iniziate nel peggiore dei modi, poi invece sono andate a migliorarsi nel corso del tempo. Ha fallito la società, il prossimo anno dovremo capire se fallirà anche la dirigenza giallorossa o se ha fallito in un anno soltanto Luis Enrique. Ecco, visto che stiamo parlando di Roma, che Roma nascerà con Montella? con Montella nascerà una Roma che punterà molto su Barrientos, perché è il calciatore che Vincenzo Montella già ha indicato a Walter Sabatini come un possibile rinforzo per la linea offensiva, perché è duttile sia per la fase offensiva che difensiva ed è un esterno che spinge molto e piace molto a Vincenzo Montella. Bisognerà capire che fine farà José Angel e soprattutto Pjanic, Gago, questa gente che probabilmente non ha convinto appieno. Walter Sabatini ha pronti dei colpi, però la strategia con Vincenzo Montella cambierà leggermente, perché questa volta non si punterà soltanto sui giovani ma anche sui calciatori d'esperienza. Ma attenzione, perché la Roma, dopo un anno di gestione, possiamo dirlo, fallimentare tecnicamente ed economicamente, cambierà la strategia, anche perché non potrà permettersi un'altra stagione con un bilancio in rosso, meno 70 milioni, ed è la squadra prima in classifica per il bilancio in rosso, appunto. Sì, sì. Michele, invece è chiaro che il Milan deve rifare tutto, no? Vanno via in blocco gli anziani, un addio anche, se vogliamo, prevedibile. È sempre meglio rifare squadre quando si vince, però alla fine si rifanno sempre quando si perde, perché questa è la storia del Milan, dell'Inter e di due squadre che Milano si ritrova in mano completamente da rifondare. Io ho una chiave di lettura che ieri ho anche palesato nel corso dell'ultima puntata di Solo Calcio su Sport Italia. Noi parliamo spesso di calciomercato e gli addii di Nesta, Seedorf, Pirlo, l'anno scorso poi l'intervista alla Gazzetta dello Sport ha certificato il tutto in maniera ufficiale, Pippo Inzaghi e soprattutto Gennaro Gattuso. Questa non è una fuga dal Milan, è una fuga da Massimiliano Allegri, un allenatore che al primo anno ha vinto grazie ai consigli degli anziani, tra virgolette, di coloro che comandavano lo spogliatoio. Adesso si ritrova il Milan con uno spogliatoio ex novo, ma soprattutto Nesta, e mi riferisco in particolare a Gennaro Gattuso, vanno via nonostante gli sia stato proposto un rinnovo contrattuale, perché hanno capito che quest'anno il Milan non ha vinto, ma soprattutto hanno la certezza che il Milan non vincerà per le prossime stagioni, non vincerà per le scelte e per il modo di fare e di gestire lo spogliatoio di Massimiliano Allegri, per il modo di gestire in questo momento soprattutto un bilancio in rosso che probabilmente porterà anche alla cessione di Thiago Silva. Il periodo del Milan è un periodo negativo e si va verso non anni di trionfi, e questi campioni hanno voluto lasciare con un anno di sconfitta, ma non con anni di sconfitta, perché lo scorso anno, lo ricordiamo, la scorsa stagione il Milan ha vinto lo scudetto, potevano essere ricordati per le stagioni negative. Hanno capito dove andrà a finire il Milan e si sono tirati indietro, giustamente, per essere ricordati come i campioni che hanno vinto e non con i campioni che si sono trascinati, hanno perso e quindi finiscono sulle pagine dei giornali perché sono andati male. Poi sappiamo la gestione del gruppo, e concludo, Massimiliano Allegri ha perso lo spogliatoio nel mese di novembre, ha perso lo spogliatoio quando ha scaricato in quella maniera Pippo Inzaghi, quando non ha dato più fiducia ad Alessandro Nesta, e l'ha perso completamente di mano, perché il rinnovo di Gennaro Gattuso, il non rinnovo di Gennaro Gattuso, si è deciso durante Milan-Atalanta, quando ha schierato Flamini ignorando la presenza di Gennaro Gattuso, un simbolo al quale Allegri ha mancato di rispetto, soprattutto nello spogliatoio, dopo che lui lo spogliatoio gliel'aveva cambiato. Sì, c'è anche da dire che possiamo parlare di Conte, della vicenda di Conte e Del Piero, che si è conclusa, mi pare che è stata gestita quantomeno meglio, si è conclusa in modo più dolce. Io trovo anche che comunque ogni storia abbia una fine che prima o poi arriva, quindi trovo anche fisiologico che ci sia questo addio, che poteva essere forse celebrato anche qualche stagione fa, Michele, perché tutta gente sui 35, 36, 37, 38, insomma, tanta roba, Alla Juventus c'è un caso, al Milan ci sono più casi tutti insieme, quindi ti fanno pensare, ti fanno discutere. Sì, adesso noi discutiamo proprio di questo argomento. Il problema è che se il Milan doveva fare una rivoluzione, doveva farla convinta, è perché Galliani ha proposto un rinnovo di contratto a Nesta di un anno, lo ha proposto un rinnovo di contratto a Gennaro Gattuso di un anno, quindi la scelta è stata dei giocatori, non della società, quindi non è stata una strategia. E soprattutto se devi mandare via 7 senatori, ne mandi 3 nella stagione scorsa e 3 in questa stagione e altri 2 al massimo, un altro la prossima stagione, deve essere un percorso graduale. E invece, ripeto, questi giocatori hanno deciso di andare chi a New York, chi forse a Glasgow, chi o a Dubai, o addirittura a smettere, perché non hanno più feeling con l'allenatore. Poi da vedere se c'era ancora il presidente. Un'ultima cosa, perché c'è Giorgio De Luca che è interessato alla vicenda, Lavezzi, Inter che offre di tutto, compreso Ranocchia, che secondo me al Napoli servirebbe. Stagione negativa di Ranocchia, però resta un giocatore che è meglio di Cannavaro, Aroni, che compagnia briscola. Sono d'accordo con te. te, sposo la tua linea, c'è solo un problema per Ranocchia, che è di sicuro un grandissimo talento che l'Inter un po' sta bruciando. Sì, il sì. problema principale è che Ranocchia forse farebbe un po' fatica a giocare a 4, nonostante a Bari abbia fatto cose straordinarie con a 3, scusami, con sì. Giampiero Ventura. In questa circostanza, se dovesse restare come sembra Walter Mazzarri a Napoli, Mazzarri è uno che gioca con la difesa 3, quindi in quel caso Ranocchia potrebbe avere dei problemi. Per quanto riguarda l'Avezzi, è già tutto pronto, De Laurentiis e Moratti stanno soltanto cercando di capire la base economica, si parte da 22-24 più ovviamente due giocatori, le contropartite tecniche, ovviamente balla il contratto e l'ingaggio di Goran Pandev, ma ormai una certezza, ed è quello che conta più ovviamente dei soldi e delle contropartite tecniche, è che Ezequiel Avezzi lascerà il Napoli, purtroppo per i tifosi partenopei, e vestirà la maglia nerazzurra. Grazie Michele, buon lavoro. A voi, ciao. Alla prossima, grazie Michele Criscitiello. Ho due ascoltatori prima della pausa, velocemente, poi avremo anche l'arrivo del Giro d'Italia con Pirazzi e Redia Lopez in fuga, ma il gruppo dei migliori che insegue a non molta distanza mentre siamo in salita. Massimo, La Spezia, buonasera. Buonasera signor Genta, senta, io ho questo interrogativo qua che da juventino mi pongo. Ma come mai e su cosa appoggia il fatto di rivendicare i 30 scudetti? Cioè, io da quello che ho capito io è che si tratta di dire le telefonate le facevamo oggi, le faceva Gagliani, le facevano tutti quanti, e quindi è tanto lato chi ruba chi tiene il sacco, cioè in punta di diritto non mi sembra una grossa cosa, fermo restando che quell'estate lì c'è stata una certa fretta, quello è indubbio nel giudicare a mio avviso. Detto questo, la Juve, io sono uno che è stato all'Eisel e come dire, le cose mi piace meritarle. Quella coppa lì io fino al 96 che non l'abbiamo rivinta non l'ho sentita mia. Certo. E questi scudetti qua, sebbene i giocatori erano straforti, infatti poi hanno vinto il mondiale, quello non glielo toglie nessuno, però onestamente non riesco a capire su cosa appoggia tutta questa sicumera che non la trovo, ripeto. Sì, ma guardi Massimo, io credo che con questo scudetto sia il momento di cominciare a guardare all'orizzonte, visto che adesso davanti non c'è più nessuno, no? Sia il momento di cominciare a guardare avanti. Poi, insomma, ha usato parole di estremo buon senso, mi pare, l'altro giorno, anzi sono certo l'altro giorno, Del Piero, mentre il lunedì Agnelli già, prima cosa che ha detto, sono 3 stelle, sono 30, eccetera, eccetera, Del Piero ha detto: io quello scudetto lo sento mio, e questo nessuno, la sensazione nessuno gliela può, gliela deve togliere, però ci sono altre logiche che comunque vanno rispettate, ha detto Del Piero, e mi sembrano parole le parole di maggior buon senso usate su questa vicenda sul fronte bianconero. Luciano, Reggio Calabria, poi ci fermiamo un attimo. Sì, buonasera. Niente, io volevo collegarmi un attimo a quello che ha detto il suo collega della Gazzetta dello Sport, più che altro onestamente Alessandra Bocci. Esatto, sentire un attimino prevedere anni di catastrofismo, il Milan che non vincerà, anzi addirittura chissà dove dovrebbe quasi retrocedere per come ne ha parlato male. Io penso che la valutazione che è stata fatta, si parlava durante l'anno sempre degli infortuni, io credo che tranne l'infortunio di Cassano, che penso che nel calcio sia un infortunio, forse è la prima volta che io, almeno io, 25 anni, non l'ho mai sentito da quando seguo il pallone. Gli altri giocatori lasciano, ma sono giocatori che tu a inizio anno devi tener conto che, anche viste le passate stagioni, avranno infortuni, quindi comunque è normale aver necessità di liberarsi un po' di questa gente. Ma liberarsi è normale, dirsi addio, no? A un certo punto, anche io credo che anche l'offerta dell'ultimo contratto annuale ad alcuni senatori, insomma, alla fine sia meglio così, sia meglio girare pagina e ricominciare da dove non si sa. Qui, ripeto, dovrà essere molto brava la dirigenza rossonera, bisogna capire quanti denari verranno messi a disposizione, però il Milan, insomma, sono molti anni che è una squadra da rifare, ma questo lo sanno meglio di tutti i milanisti, no? E quindi penso sia arrivato fisiologicamente il momento corretto, al di là dei... appunto, come diceva prima Criscitiello, non so fino a che punto questa sia la ragione dei cattivi rapporti tra la vecchia guardia e Massimiliano Allegri, ma cambiare, insomma, è una necessità per il Milan, non è uno sfizio. Giro d'Italia all'arrivo, mi pare sia il caso di andare subito lì. Voci dal giro. La voce da sentire subito è quella di Pier Augusto Stagi, che ci racconta come è finita da pochi istanti questa tappa, primo arrivo in salita al Giro d'Italia. Ciao Pier Augusto. Ciao Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Come è finalmente andata bene, andata bene perché perlomeno una tappa un italiano è arrivata, la tappa ce l'ha regalata Paolo Tiralongo, che guarda caso era stato l'ultimo a vincere una tappa al Giro d'Italia l'anno scorso per grazia ricevuta, perché come ti ricorderai era compagno di squadra di Alberto Contadore, il grande trionfatore del Giro d'Italia, e lo fece vincere il suo gregario, l'uomo di fiducia. Oggi invece se l'è sudata, in apnea ha fatto una volata negli ultimi 400 metri estremamente all'insù e ha superato di slancio Michele Scarponi, quindi primo Paolo Tiralongo, secondo Michele Scarponi, terzo Frank Schleck, quarto Joaquin Rodriguez, quinto il canadese Eisedel, che è la nuova maglia rosa, perché Adriano Malori non ce l'ha fatta praticamente a 14 km dal traguardo quando è iniziata questa lunga ascesa verso Rocca di Cambio, e lui ha ceduto immediatamente. Sesto Pozzovivo, ottimo ottavo posto per Ivan Basso, quindi la classifica generale cambia di poco. Va la maglia rosa sulle spalle di Eisedel, ma quello che conta oggi è che diciamo si sono visti finalmente per la prima volta dopo una settimana, si sono visti un po' i big. Sì. Si è visto Cunego che ha fatto qualche accelerazione, soprattutto nel finale si è visto Michele Scarponi, che è partito ai 500 metri, ha guadagnato spazio ma non su Tiralongo, quindi sono arrivati loro due, hanno sprintato e Tiralongo proprio negli ultimi 150 metri l'ha diciamo superato di slancio e sono arrivati letteralmente in apnea tutti e due. Tiralongo si è proprio sdraiato sulla sedia stradale, sì. Morto di stanchezza, sì, sdraiato sul selciato, è un'immagine che se uno accendeva la tele in quel momento lì si spaventava, però era solo gioia. Eisedal nuova maglia rosa davanti a Tiralongo per 15 secondi, Joaquin Rodriguez a 17, Valverde a 21, Van der Velde naturalmente, poi Basso a 40 con Kreuziger a 35, sono i primi due big in classifica, no? Settimo, mi pare. Ottavo. Sì, settimo, ottavo, i primi due big, ottavo. Kreuziger e Basso, 35-40 sì. Secondi. Non sottovalutiamo Joaquin Rodriguez, ricordiamo che è un corridore che tiene sulle tre settimane, è venuto qua per vincere il Giro d'Italia, ci sono tanti giornalisti spagnoli che hanno seguito Joaquin Rodriguez e sono convinti che sarà in grado di sbancare la banchetta appunto rosa del Giro d'Italia, quindi diciamo che Joaquin Rodriguez al momento è un po' avvantaggiato, secondo c'è Kreuziger e terzo è Ivan Basso. Sì, comunque distacchi ancora tutti da fare. Sentiamo in diretta Scarponi con la Rai. Ecco, all'ultimo km e mezzo e ho provato, si è portato un po' lungo mi sembra, però dai, va bene. Provavi a vincere, di la verità. Vabbè, visto che c'ero, mi sarebbe piaciuto. Senti, adesso la corsa come cambia per voi? Adesso la corsa non cambia in nessun modo. Siamo solamente all'inizio, non è successo nulla e abbiamo corso bene e dobbiamo continuare a correre così, niente. Questo era Michele Scarponi dunque con la Rai. Io ringrazio Pieragusto Stagi, ci sentiamo più tardi. Grazie, certo. Pieragusto. Grazie. Ciao Carlo. Grazie. Ciao. Dunque per questa cronaca molto dettagliata dell'arrivo di questa prima tappa in salita. Ripeto, vince Tiralongo in questa volata con Scarponi, cambia chiaramente la maglia rosa che va sulle spalle di Eisedal, abbiamo detto prima della crisi che ha avuta da Malori sulle pendici di Rocca di Cambio. Non cambia per nulla il giro dei big, che sono tutti lì in un pugno di secondi, ma d'altra parte questo primo arrivo in salita era difficile chiedere più di quanto abbiamo visto. Facciamo così, vi faccio subito la domanda, perché oggi Giorgio De Luca è stato cattivo con voi, domanda cui rispondere via sms 349-238-6666, che vi permetterà di vincere il polsino di Radio 24 autografato da Ivan Basso, lo stesso che vedete sul braccio di Ivan, nostro compagno di viaggio in questo giro, e che sentirete dopo il GR delle 19 nel suo diario. Ebbene, la domanda è questa: qual è la nazionalità che dopo l'Italia ha conseguito più vittorie finali nel Giro d'Italia? Cioè, quali corridori, oltre a quelli italiani, dopo quelli italiani, hanno vinto, di quale nazionalità sono i corridori che hanno vinto più Giri d'Italia? Cari Hermes, Vittorio e Paolo, non è la Spagna ad aver vinto il maggior numero di Giri d'Italia, oltre all'Italia naturalmente. 349-238-6666, se vi firmate leggo anche il nome di chi risponderà a questa domanda vincendo. Ma sapete, un altro concorso in ballo che vi regala la tappa del 20 di maggio a bordo dell'ammiraglia della Liquigas di Ivan Basso. Vi invitiamo a scriverci via mail brevi racconti vostri sul Giro d'Italia, 8-10 righe, come questo di Franco Del Bello. Era 67, avevo 12 anni, seduto sui gradoni dell'arena sotto il sole di giugno, aspettavo che arrivassero uno ad uno. Era la sola passerella, il tempo veniva preso prima di entrare in arena, ma che spettacolo, Gimondi, Adorni, Dancelli contro quel francese, che altri non era che Jacques Anquetil, eccetera. Poi c'è anche Paolo Ghidini, Giro d'Italia 93, tappa con arrivo a Lumezzane, giornata da giro. Il paese si ferma, le aziende chiudono, tutti, dal bambino all'anziano, con la frase che risuona come un mantra: oggi arriva il Giro, sole, biciclette, moto, ammiragli, appassionati, TV, radio, le immancabili ragazze del Giro, poi lei, la protagonista, la tappa. Giù con amici a ridosso delle transenne a 10 metri dal traguardo, sempre più pigiati, arriva, è solo, e vince Davide Cassani. Oggi sentiamo raccontare il Giro d'Italia. Continuate a scriverci per vincere questo premio, che credo sia irripetibile, no? Per gli appassionati di ciclismo. Dovrei avere la risposta giusta. Vediamo chi è il primo. Chi è? Dante è il primo a rispondere correttamente alla domanda: quale nazionale ha vinto più Giri d'Italia a parte l'Italia? Non era la Spagna, ma il Belgio. Quindi Dante vince il possesso di Van Basso. Torniamo a una battuta di Tiralongo, vincitore del giro della tappa di oggi, la voglio sentire. Abbiamo visto la stana davanti, pensavamo che voi steste lavorando per Roman. Quando avete deciso, se è stata una decisione dell'ultimo momento oppure se era già preordinato che alla fine dovessi provare tu e non Roman? Grazie. No, io oggi dovevo star lì e provare il finale, ecco, se partiva un pupettino qualcosa. Ho visto che bene o male le squadre erano sempre bene organizzate, allora sono rimasto lì sulle ruote, poi sapevo che c'era la discesa prima dello strappo e allora ho cercato di prenderla davanti. Sono stato agevolato da Cataldo che è partito, poi è arrivata la Lampre che ha fatto un bel forcing e io sono rimasto sempre lì sulle ruote e sentivo che stavo bene, volevo la vittoria. Anche già da stamattina l'avevo detto anche ai ragazzi, ai miei compagni, che sto bene, voglio sfruttare il mio momento e Roman deve stare solo tranquillo adesso sulle ruote, che il giro è ancora lungo, ci sono 3 settimane e io sarò con lui a dargli la mano dall'ultima settimana in poi. Questo è Tiralongo, prima vittoria italiana di tappa questo giro. Roman è ovviamente Kreuziger, uno dei grandi favoriti di questa corsa rosa. Vorrei tornare a calcio e chiudere con delle voci di addio e con le vostre voci, se possibile. Pertanto vi faccio sentire oggi Gattuso in conferenza stampa. Preparati, fazzoletti, tifosi del Milan, arriva! Dentro di me sentivo il bisogno di... che dovevo lasciare, perché anche chi ha lottato con me per tanti anni, lo zoccolo duro, stava lasciando penso che è arrivato anche il momento che io mi mettessi da parte, come ho fatto. Però ripeto, non è facile, però bisogna fare delle scelte nella vita. Io ho fatto questa, speriamo di non aver sbagliato, però penso che di aver fatto la scelta giusta. Lo penso anch'io insieme a Gattuso. Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera dottor Genta. Io sono un tifoso del Milan e devo dire che invece sono contento che domani un po' di giocatori del Milan vengano rottamati, che è un po' di anni che... Ecco, adesso le parole di Gattuso, secondo me Gattuso è andato via 2 anni Con due anni di ritardo. Sì, no, erano giocatori che andavano a forse giusto Alessandro Nesta era, ha continuato una carriera a buon livello, però non era più il Nesta di qualche anno fa, perché sì. se noi ci ricordiamo la partita col Barcellona all'inizio del secondo tempo chiese il cambio perché non ce la faceva più. Nesta che... poi è sempre stato comunque un giocatore soggetto ad infortuni, ma anche quando era molto molto più giovane, no? Quindi è un giocatore che il doppio impegno campionato e coppa non riesce ad affrontarlo con continuità. Poi sono d'accordo nel dire che di questa pattuglia Nesta, mi permetto di aggiungere Seedorf, forse erano gli unici che potevano dare ancora qualcosina al Milan, gli altri non credo, ecco. Quindi non so se è d'accordo con me anche su Seedorf, che comunque che, no, non è un Seedorfista, un Seedorfiano. No, no, non è questione, io sono per il Milan, però Seedorf ultimamente era veramente, secondo me non era più il giocatore di qualche anno fa, e quindi di conseguenza. No, ma questo è sicuro, questo è evidente. Questo è evidente, secondo Alessandro. Me la società ha fatto questi rinnovi anno in anno perché naviga, ultimamente sta navigando un po' a vista, insomma, per problemi di bilancio, per problemi forse. Non forse anche un po' di pigrizia mentale per cercare di andare a cercare di trovare dei giocatori. Ormai è venuta la paranoia dei parametri zero e niente, si continua. Beh, non so se sia paranoia o assenza di quattrini, perché poi ogni cosa al suo nome. Poi la dirigenza del Milan, devo dire che ha fatto un paio di ricamini non da poco con lo stesso affare Ibrahimovic e con insomma pigliando a 500.000 euro Nocerino, che mi pare che a occhio e croce sia stato il migliore, più continuo ad alto livello del centrocampo del Milan, lasciando stare la montagna di gol che ha fatto. Quindi in assenza di quattrini direi che qualche ricamino la dirigenza del Milan ha fatto. Si tratta di vedere adesso che c'è una squadra da rifare totalmente, cosa che sapevano tutti, sapevano anche i Sassi e i pochi fili d'erba di San Siro. Adesso si tratta di vedere quale sarà la strada da percorrere, anche se non sottovaluterei l'aspetto di cui sopra, a cui facevo riferimento prima, che il Milan si trova non solo a dover rifare la squadra in campo, ma anche a dover rifare il nucleo, a ricostituire un nucleo forte nello spogliatoio che adesso non c'è più, ed è per questo che dicevo che gli unici che potevano dare ancora qualcosa a questa squadra in campo, perché quello è necessario, ma anche all'interno di quello spogliatoio, potevano essere Seedorf e Nesta. Nicola, provincia di Napoli. Pronto, buonasera dottor Genta. Buonasera Nicola. Complimenti per la trasmissione. La mia domanda, penso che lei già l'avessi, sulla vita. Ho indovinato. Purtroppo noi tifosissimi del Napoli siamo delusi dal Pocio, perché ogni anno sta chiedendo un adeguamento del contratto, è partito da Napoli con 700.000 euro all'anno, è arrivato oltre 2 milioni bonus, magari con un accordo con il nostro caro presidentissimo, che veramente fa risultare il bilancio è una delle migliori società. Però Nicola, proprio per questo posso dire una cosa? Io credo che sia un affare per tutti e due, perché credo che il momento per cedere la Vezzi sia questo, poi potrebbe essere tardi. I soldi che chiede il presidentissimo, come lo chiama lei, non sono pochi, sono anzi parecchi con i tempi che corrono, e quindi io credo sia una cosa che possa andare bene per tutti e due. Piuttosto mi domando che fine abbia fatto, possa fare l'erede designato di Lavezzi, pure pagato non pochi quattrini, cioè quell'Edu Vargas che è arrivato con grandissime credenziali e che poi si è perso strada facendo. Ora leggo di altri possibili eredi di Lavezzi, non lo so, si tratta di indovinarne uno, però credo che insomma la cessione, per quanto dolorosa posso immaginare per tutti i tifosi del Napoli di Lavezzi, sia un po' nell'interesse di non solo del Pocio, ma anche del presidentissimo e del Napoli che verrà. Ripeto, io insomma, al di là della ricerca di un erede di Lavezzi, penserei anche a puntellare una difesa che non mi sembra che sia il massimo della vita ad altissimo livello laddove vuol competere il Napoli. Adesso chiudiamo, però riapriamo i battenti e i discorsi domani dal Salone del Libro di Torino, quindi se siete in zona veniteci a trovare, a cercare, che ci conosciamo di persona. Dalle 16.30 alle 19 saremo là, grazie a Giorgio De Luca che sarà pure a Torino e a Fabio Cantadore che invece resterà qui, giusto? Ecco, grazie a loro due per la puntata di oggi. Ciao a tutti.